A Tempo di Sport di Giovanni Capuano. E allora buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport, subito i contatti per questo pomeriggio che ci porta alla sfida tra Juventus e Inter, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, potete scrivere anche sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24 oppure via Twitter chiocciola Capuano Joe. Una partita che, come ha scritto questa mattina alla prima pagina di Tutto Sport, secondo me la sintesi migliore tra tutte, vale un po' come le primarie per lo scudetto, ovvero non ancora decisiva, però sicuramente importante nel cammino che porta poi a maggio all'assegnazione del tricolore. Ne parleremo, intanto saluto con Alessio Tacchinardi. Buon pomeriggio Alessio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Intanto però dobbiamo darvi l'aggiornamento di quanto sta accadendo ad Abu Dhabi proprio in questi minuti. I motoristi della Renault, i tecnici, gli ingegneri della Red Bull sono infatti a colloquio con la giuria, con la direzione di gara, perché il tedesco, che oggi si era piazzato terzo nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, rischia domani di dover partire almeno una decina di posizioni più indietro, se non proprio dall'ultima fila. Il perché ve lo spiego: perché non ha concluso l'ultimo giro, quello dopo la bandiera a scacchi, si è fermato, ha accostato la sua autovettura, probabilmente per un guaio al motore, e in questo caso sostituendolo dovrebbe perdere 10 posizioni oppure anche meno a seconda di qual è la componente che viene cambiata del motore. Ma c'è anche il sospetto, anzi la BBC parla di una certezza, che in realtà avesse finito la benzina, e questo per regolamento non è consentito, e in questo caso Vettel dovrebbe partire dall'ultima fila, e ovviamente tutto ciò rimetterebbe in gioco un mondiale che per Alonso si è fatto in salita. Alonso che nelle prove ha chiuso al settimo posto. Saluto anche Evaristo Beccalossi. Buon pomeriggio Evaristo. Ciao, buon pomeriggio. Vi abbiamo chiamato tu ed Alessio Tacchinardi invece per giocare in anteprima questo Juventus-Inter. Quanto vale davvero? Abbiamo visto il titolo di Tutto Sport che l'ha definita le primarie per lo scudetto. Alessio, quanto vale? Ma prima hai detto che vale, ma non vale per lo scudetto. Io penso che questa partita qua, ci sono delle partite in un campionato molto importanti per far credere e far crescere l'autostima in un gruppo. Se per la Juve vale tanto perché può staccare ulteriormente l'Inter, che è una squadra secondo me che arriverà fino in fondo a lottare per lo scudetto, quindi la Juve deve cercare di vincere per staccare un po' le concorrenti, secondo me questa partita vale tantissimo per l'Inter. Mi spiego, perché l'Inter pensa che se dovesse andare a Torino e vincere la partita si avvicinerebbe la Juve, ma non tanto come punteggio ma come mentalità. È un Inter che sta crescendo, un Inter che è bella quadrata, mi piace molto, la Juve è sempre la solita Juve, cattiva, determinata, col solito gioco, però penso che sia più decisiva per l'Inter che per la Juventus. Forse alla Juventus questa sera, Evaristo, e passatemi un po' l'immagine, conviene cercare di uccidere il bambino in culla, cioè questa convinzione che l'Inter potrebbe prendere, uscendo indenne da Torino, di essere davvero competitiva per lo scudetto. Ma intanto saluto Alessio, che ciao Ale. Sì, ma non fate troppo i buoni però, perché c'è Juventus-Inter questa sera, dai. Ma stasera credo che comunque vada, secondo me vedremo una bella partita, perché sia che vinca l'Inter o la Juve, il campionato non è sicuramente chiuso, perché siamo all'inizio. È un bel test perché la Juve è quella favorita, noi siamo cresciuti molto, credo che speravamo di essere... lì in scia alla Juve, anche perché c'era il Napoli e c'erano altre squadre che dovevano lottare, però ci siamo trovati lì in anticipo, nel senso che il gruppo è cresciuto, abbiamo cambiato tantissimo, dunque siamo in grado di poter fare risultato su qualsiasi campo. Secondo me è una bella partita, perché insomma, ti ripeto, noi siamo partiti in sordina avendo cambiato tanti giocatori, ringiovanendo anche, e Stramaccioni sta facendo un grande lavoro. Ma cambierà qualcosa per l'Inter uscire questa sera con una vittoria, o comunque non con una sconfitta, anche a livello di convinzione? No, non deve cambiare assolutamente niente, perché quando tu cambi tanto, essere già lì a lottare per il primato, secondo me vuol dire che si è accelerato si è accelerato in fretta, perché ti ripeto, io avrei messo la fila per arrivare nei primi tre, figurati, e credo di essere una persona abbastanza equilibrata, però essere lì alla Juve, avere la possibilità di arrivare a un punto è una bella cosa, ma non deve essere un peso, perché se non dovesse andar bene non cambia assolutamente nulla. Sì, va sottolineato che le precedenti primarie, quelle per la Roma di Zeman e per il Napoli di Mazzarri, che sono uscite entrambe sconfitte da Torino, in realtà poi hanno portato una coda, perché la Juventus ha battuto la Roma e la Roma ha perso due delle quattro partite successive, la Juventus ha battuto il Napoli e il Napoli ha poi perso una delle due partite successive. Alessio, c'è anche il rischio magari di un contraccolpo psicologico, forse è questo il match point, fra virgolette, che si gioca questa sera Conte? Perché Evaristo ha detto una cosa giusta, cioè l'Inter non si aspettava di essere così in alto, però sono anche dell'opinione che però adesso che è lì comincia a credere di essere una squadra forte, anche perché lo è, ha tre giocatori là davanti che sono fortissimi, di grande qualità, un centrocampo solido, robusto, dinamico, una difesa finalmente tonica, quindi l'Inter è pronta per giocarsi questa partita. E certo, la Juve dovesse vincere, non dico che ammazza il campionato, però da un'ulteriore forza e convinzione, ma l'Inter penso che vada a giocare a Torino non con quella pressione come quando magari giocavo io nella Juventus, che l'Inter doveva sempre volere dimostrare qualcosa. Quindi stanno facendo bene, io penso che vada a giocare con una mentalità serena, però che non vada a giocare col tridente. Penso che Stramaccione ha dimostrato grande intelligenza, andasse secondo me un po' più coperto, perché non uscendo da Torino con un risultato, un pareggio o una vittoria, darebbe grande, grande convinzione a questa squadra. Evaristo, secondo te ha più paura Conte questa sera o Stramaccioni? Adesso ragiona già da mister, ormai hai visto. Beh, io sono mister, Evaristo. Lo so, Ale. Hai visto, toglie qualcosa davanti, inserisce uno a metà campo, magari lo manda su Pirlo. Beh, è un bel disegno tattico. Voi chi mettereste su Pirlo questa sera? Cioè, chi dice Gargano, che in realtà dovrebbe partire dalla panchina? Non lo so, perché io avrei due scelte. Se, ripeto, sono mie convinzioni, che io toglierei uno davanti, metterei il cambiasso su Pirlo per attaccarlo, oppure addirittura io andrei a soffocarlo con una marcatura Gargano. E tu, Alessio? Ah, guarda, devo dire che ci pensavo proprio in questi giorni. Io vedo un cambiasso devastante, un cambiasso che non ha più ha un passo totalmente diverso dall'anno scorso, quindi può fare le due fasi, quindi può dar veramente fastidio a Pirlo, ma soprattutto sa inserirsi bene. Però l'Inter, Gargano magari ha pochi inserimenti senza palla, Cambiasso è bravo, quindi più vicino alla porta Cambiasso può fare più male. E devono stare attenti a Pirlo, perché Pirlo è il motore della squadra, è quello che dà più qualità al cervello. Quindi io penso che Stramaccioni abbia dimostrato di leggere bene le partite, come ha fatto con Pizarro, con Coutinho su Pizarro. Quindi marcherà Pirlo, penso più che con Cambiasso, perché anche riesce a fare bene le due fasi, si può anche inserire, mentre invece Gargano è più lavora molto più in fase difensiva. Sì, Cambiasso io credo sia la dimostrazione di come a volte sia necessario, sufficiente, utile attendere qualche mese prima di esprimere un verdetto definitivo. Un anno fa veniva dato come un giocatore finito, è bastato cambiare qualche pedina intorno a lui, in fondo un giocatore che non ha ancora 32 anni e il prodotto è decisamente cambiato. Io vi avevo chiesto chi ha più paura, Evaristo, tra Conte e Stramaccioni, perché anche Conte ha fatto turnover col Bologna, Stramaccioni probabilmente non giocherà con il tridente. Sono segnali di rispetto o di paura? Non lo so chi ha paura, perché Conte è mica su un anno nello sgabuzzino di Sky, quindi lui non ha paura di niente, tranquillo. Ma Stramaccioni un po' più di contatto con i tifosi così lo può avere, ma no dai, io credo che siano liberi mentalmente tutti e due e non abbiano, cioè sono molto, prima adesso diceva non è come interview degli anni passati, credo che si sia elevato il livello di tutte e due le squadre e non credo che abbiano paura, magari rispetto sì ma paura no. Intanto noi abbiamo lanciato un giochino questo pomeriggio ai nostri amici sulla pagina Tempo di Sport - Radio 24 chiedendo quanti giocatori dell'Inter di oggi sarebbero titolari in questa Juventus. Secondo me solo Milito a fare copia con Vucinic. Gli amici da casa la pensano un po' diversamente, c'è chi dice Samuel che è ancora più affidabile di almeno uno dei due centrali difensivi della Juventus, c'è chi dice Zanetti che è più forte di Lichtsteiner, chi ancora ci dice che Handanovic ha fatto un inizio di stagione migliore di Buffon. Noi adesso ci fermiamo per un minuto per le notizie sul traffico e poi lo chiediamo a Tacchinardi e Beccalossi chi di questa Inter potrebbe giocare nella Juventus di Conte. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, poi prendiamo anche le vostre telefonate per sapere come state vivendo questa vigilia di Juventus-Inter. A tempo di sport. Da casa al 349-238-6666 scrivono: speriamo che questa sera vinca l'Inter, perché altrimenti si creerebbe un campionato troppo noioso. Evaristo, è questa la motivazione? Ma no, cioè anche se dovesse vincere la Juve, credo che il campionato sia lungo, anche perché ci si dimentica che la Juve è in Champions League, andando avanti in Champions League come ce l'aspettassi. Insomma, il campionato non può considerarsi chiuso, qualche energia la spenderà anche in Champions League, la Juve dà più speranza agli altri di poter recuperare. Sì, anche se sin qui non è accaduto, magari in Champions questa squadra sta facendo fatica, però l'impressione è che rispetto alle prime settimane in cui Conte si fidava poco anche di provare il turnover, nell'ultimo mese abbia imparato anche ad apprezzare di più le qualità delle sue riserve. Alessio, chi prenderesti? Ti interrompo velocemente, però io penso che però la Juve, è vero che siamo all'inizio del campionato, ma dovesse andare a così tanta distanza dall'Inter e Napoli, insomma, comincerebbe a essere sette punti. Sì, sono sette punti, insomma, sono tanti dopo poche giornate, quindi è vero che c'è la Champions, ma può amministrare, è vero, non è mica finito niente perché è ancora lunghissimo, però sette così poche giornate di inizio campionato si aprirebbe un bel socco. Sì, soprattutto con una squadra, in questo caso l'Inter, che a prescindere sta viaggiando al di sopra delle sue aspettative, poi può anche essere stata favorita, e lo abbiamo detto domenica, anche da alcuni episodi, anche essere stata fortunata in alcuni momenti, sta certamente crescendo, ha un suo progetto, però... Non si sono fatti mancare niente neanche altre squadre. Però, No, perché... Dopo vi chiedo di Tagliavento, se vi mettereste nei suoi panni. No, però Evaristo, è innegabile che l'Inter è un progetto che sta crescendo, però lo scriveva anche Mario Sconcerti in settimana sul Corriere della Sera, è forse impensabile che possa proseguire a 2,5 punti di media a partita, non è una squadra costruita per correre così. La Juventus invece sì, andare avanti di 7 punti a un quarto, perché siamo pur sempre a un quarto del campionato, non una sentenza ma un piccolo mattoncino potrebbe esserlo. Ma sì, sicuramente è un mattoncino, un mattone anche pesante, 7 punti, però negli ultimi campionati, insomma, c'è anche ritardi o vantaggi si sono dimostrati che si possono recuperare. Poi ti ripeto, Alessio ha grande esperienza, che ha vissuto, insomma, gli anni dove c'era la Champions League, il campionato, c'è la Champions, almeno a livello psicologico porta via un po' di energia, ecco perché chi magari è in questo campionato o l'Europa League, secondo me ha più possibilità di avere un po' di continuità. Poi dopo, se sul campo la Juve è talmente forte, pronti via, ti dà 10-12 punti, allora non ne parliamo. Non c'è più discussione. Esatto, bisogna cercare di stare lì attaccati più possibile alla Juve, perché andando avanti in Champions League, sono convinto che qualche energia la sprechi di più lì. Alessio, non mi hai detto chi toglieresti all'Inter per metterlo, per trapiantarlo in questa Juventus da record. Io ho detto Milito, a fare coppia con Vucinic. No, io metterei anche 3 giocatori, onestamente, perché dietro, secondo me, Juan Jesus o Samuels la possono giocare con Bonucci, mentre gli altri 2, Barzagli e Chiellini, sono delle garanzie. Zanetti a me piace moltissimo, quindi al posto di Lichtsteiner, che è in grande calo, onestamente io lo sto vedendo molto in difficoltà rispetto all'anno scorso, quindi metterei Zanetti. Centrocampo non si tocca, anche se però mettiamo Milito davanti, anche se però l'Inter sta salendo di livello, quindi io penso 3 giocatori si possono cambiare, però l'Inter sta salendo di livello. Io penso che sia un progetto serio, la Juve è già una corazzata incredibile, però l'Inter è la squadra che mi fa più paura, perché davanti ha veramente della qualità che in pochi hanno, quindi Milito, Zanetti e Osamel o Juan Jesus, che a me piace moltissimo. Con o senza tridente l'Inter è capace di far male in ogni momento. Intanto Alessandro su Twitter, @CapuanoGio, scrive: Zanetti ha 2 anni in più di Tacchinardi e probabilmente giocherà titolare su sulla fascia, secondo voi Evaristo è umano? O è umano lui o è scarso no, Tacchinardi? È disumano, diverso. È disumano, Gianetti. È disumano. Tu Evaristo chi trapianteresti dell'Inter in questa Juventus? Dai, partiamo così perché è la Juve che parte favorita. Allora, sì, ma centrocampo, insomma, chi ha Pirlo, Marchisio, Vidal, credo che sia un bel trio di centrocampisti. Io Samuel sicuramente, perché quando Samuel sta bene fa giocare bene tutti, davanti Milito, farei un inserimento magari sì, uno davanti, uno in mezzo e uno o due dietro. Qualcosa dietro, sì, ho l'impressione che in mezzo non ci sia tanto posto, questo al di là della valutazione positiva che può essere data, e l'abbiamo data di Cambiasso, dello stesso Guarin, però è vero che in questo momento il centrocampo della Juventus... Ma visto che si parla di centrocampo della Juventus, si sa qualcosa, qualche rumor per giocherà Pogba o giocherà Vidal e Marchisio? Non si sa ancora. Pogba dovrebbe star fuori, dovrebbero giocare Vidal e Marchisio, non piace ad alcuni amici a casa che lo hanno scritto anche a 349-238-6666, io ricordo anche il numero verde 800-24-0024, io farei giocare Pogba, ho l'impressione che anche Stramaccioni tema il francese che sta facendo benissimo, però questa sera in realtà pare che giochino, che torni titolare Vidal con Marchisio, esatto, con il centrocampo dei titolari, questo anche a significare forse che Juve-Inter non è una partita per giovani, Alessio? Ma sai, è vero, io ho fatto un collegamento ieri a una televisione, dicevo che se Vidal e Marchisio sono al 100% è giusto che il posto è loro, se lo sono guadagnati sul campo, sudando, facendo dei gol importanti, dando carisma, dando energia a questo centrocampo qua. Però a un 80% o Vidal o Marchisio io lancerei questo. Quindi lancerei questo ragazzo che ha grande personalità, vede la porta, ha personalità, non ha paura di sbagliare. Secondo me gli appuntamenti importanti lo affascinano, non penso che si dovrebbe bruciare se dovesse far male una partita, quindi lo sa Conte come stanno Marchisio di Da, ma se sono all'80% di questo ragazzo qua lo lancerei perché ha un grandissimo futuro secondo me. Sì, in realtà abbiamo ancora un'oretta per scoprirlo perché almeno fino al momento della riunione tecnica certezze non ce ne saranno in questo tutte momento. Due le squadre perché sì, anche l'Inter non c'è dubbio. Si sa, quindi è un'attesa incredibile. È un'attesa incredibile anche perché anche nell'Inter Evaristo balla ad esempio la maglia per Cassano, tu lo terresti fuori come sembra preferendo Palacio e in ogni caso non partire con il tridente, oppure secondo te Cassano in forma così come è in questo inizio di stagione è un uomo cui Stramaccioni non può rinunciare? Non credo che parta col tridente, anche se nella situazione in cui siamo io sarei partito col tridente davanti, anche perché a livello psicologico gli faccio capire alla Juve che vado là a cercare di fargli male. Poi a livello tattico fai tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, che togli uno davanti, metti un uomo su Pirlo e cerchi di soffocare la fonte del gioco juventino e cerchi di impostare la gara così. Però io, visto che sono lì secondo così, avrei fatto una mossa proprio qui tre attaccanti, andare a mettere là dove c'è Chiellini, Bonucci e Barzagli. Un amico da casa ci chiede se non servirebbe più equilibrio nel giudicare la rinascita di Cassano nell'Inter. Evaristo, ma intanto devo ringraziare chi ce l'ha dato perché abbiamo preso anche 7 milioni e mezzo per quello che ci sta dando adesso. Sicuramente non hai 90 minuti, però un giocatore che è arrivato ha già fatto 5 gol, 4-5 assist, noi non abbiamo avuto Schneider che presso poco ha le stesse caratteristiche, meglio di così non credo potesse andare. Quindi niente equilibrio in questo momento, ti prendi Cassano così com'è, ma tutta la vita così e da buon interista godi. È un po' la sintesi, sì, anche se questa sera va in panchina in partenza. Che Cassano se viene all'Inter diventa continuo per 90 minuti che migliori tu, cioè noi prendiamo per le qualità che ha, quello che ha dato in questo primo periodo, noi siamo contenti. E invece di Giovinco, Alessio, che cosa pensi? Perché questa sera qualcuno ha scritto per scelta aziendale, perché un giocatore pagato così come è stato pagato Giovinco non può star fuori, però è vero che in questo inizio di stagione le partite importanti, quelle pesanti, le ha un po' bucate. Guarda, io rubo un secondo parlando di Cassano, è vero che non gioca titolare, se giocherà anche l'ultima mezz'ora, però Cassano è pericolosissimo, quindi è veramente un giocatore importante. Detto di Giovinco, invece, la sensazione che ho io, soprattutto avendolo visto anche con una difesa del Chelsea forte, dura e fisica, abbia sofferto molto in impatto fisico, io penso che l'Inter sia una difesa così. Quindi io non avrei lanciato Giovinco, non penso che sia una scelta aziendale, sicuramente conoscendo Conte lo fa. Lo fa perché è convinto. Lo fa perché è convinto, però devo dire che con centrocampo, nelle due linee di gioco, tra centrocampo e difesa, molto fisiche, entra una squadra solida, dura, forte dietro. Ecco, io penso che la fisicità di Giovinco possa soffrire tantissimo perché è piccolo. Me lo ricordo con Terry che veniva addirittura spazzato via e quindi avrei messo più Quagliarella, però insomma Conte li vede, li ha fatto riposare domenica, l'ha fatto pesare contro il Bologna, quindi lo vede meglio, magari vede più lui con Vucic perché riesce magari a dare quell'imprevedibilità in più. Però devo dire che Giovinco, secondo me, soffrirà molto la fisicità interista. Sì, resta per lui un esame importante, quello di questa sera. Prima di salutarvi, in 10 secondi a tutti e due, invece, che cosa pensate di Tagliavento? Io so che Evaristo, quando ha letto il nome di Tagliavento e si è ricordato le manette di Mourinho e qualche altro episodio, qualche prurito è venuto, Evaristo. No, sai, giuro che non è vero. Perché negli ultimi periodi non guardo più neanche chi arbitra, vado a valutare gli errori. Sei diventato inglese. No, ma sì, perché sennò se cominciamo a pensare sempre che c'è dietro qualcosa, non ci divertiamo neanche più. La cultura è quella di dire sì, ci sono degli errori, pigliamoli, portiamoli a casa e non mi interessa. Cioè, dopo i brutti anni che abbiamo passato, veramente non ho più voglia di pensare a certi tipi di discorsi. Allora accetto tutto quello che viene, nel bene e nel male. Non mi faccio proprio problemi chi c'è, chi c'era sbandierato. A me personalmente, Evaristo, sarebbe piaciuto tantissimo che questa sera Moratti avesse accettato l'invito di Andrea Agnelli presentandosi allo stadio. Sì, anche quella sarà una situazione. È un'occasione persa, secondo me. Non lo so, però negli ultimi anni, sai, ma il problema è che anche adesso, cioè, vabbè, ha vissuto tante sfide, anch'io con la Juve, finché il duello è sportivo, che ci sarebbe. Però negli ultimi anni è peggiorato soprattutto fuori anche a livello di tifoseria e quello non va bene perché due grandi squadre, è giusto fare attivo per la propria squadra, però si deve fermare lì, non ci vuole la cattiveria e la ferocia che c'è fuori e tutte le volte che ci si scontra in tribuna. Grazie Evaristo. Un abbraccio, ciao mister. Ciao Evaristo, grazie. Oh, ti raccomando. Ciao. Alessio, per chiudere, Tagliavento va bene fino a prova contraria? Ma guarda, Tagliavento deve allevare senza pressione. Mi è piaciuto molto Andrea Agnelli che abbia invitato Moratti. Mi è piaciuto molto le dichiarazioni di Stornaccione dopo il post Catania. Io penso che l'Inter abbia un po' dimenticato quello che è successo in passato, che faccia una partita di calcio, che sia soltanto una bella partita. Quindi Tagliavento sicuramente va una grande pressione. Perché non dimentichiamoci che è vero che va tutto, sì, in fretta. È pur sempre Juventus-Inter, non sta andando ad arbitrare una partita del dopolavoro. Poi una settimana fa quello che è successo a Catania, quindi sicuramente avrà tutti gli occhi addosso e non sarà facile. Poi io spero che l'arbitri con la mente sgombra e che sia una partita, una bella partita. Io mi auguro che sia una bella partita di grande calcio, ma poi che vinca il migliore. Intanto su Twitter la terza stella ti danno ragione, Bentner questa sera era meglio di Giovinco. Grazie Alessio. Ciao, buon pomeriggio, buon grazie, lavoro. Grazie, buon Juventus Inter anche a te, buon Juventus Inter anche a Marco Ansaldo, inviato della Stampa, che saluto. Buon pomeriggio Marco. Ciao. È un po' scarica come vigilia immediata, almeno a livello di tensione, di emozione, di attesa, non so, io ne ho vissute tante, questa, se devo dirti la verità, è un po' deludente da questo punto di vista, sei d'accordo? Sì, ma siamo anche a 27 giornate dalla fine del campionato. Tu dici che è quello. È giusto considerare il fatto che se per caso la Juve dovesse vincere si potrebbe... in vantaggio di 7 punti sull'Inter, probabilmente di 6 sul Napoli, quindi insomma sarebbe già un bel buco in classifica, però c'è ancora tutta una stagione da fare, quindi da quel punto di vista lì credo che sia anche comprensibile che non venga considerata una partitissima. Intanto Moreno al 349 238 6666 Ci scrive che questa non è Radio 24 ma Radio Juventus. Andiamo bene, visto che settimana scorsa ci accusavano invece di essere anti-juventini, e quindi ci prendiamo anche questo SMS come una medaglia. Abbiamo detto prima con Alessio Tacchinardi ed Evaristo Beccalossi, Marco, che manca ancora la certezza, però par di capire che Conte alla fine scelga il suo centrocampo titolare per questa sera, quindi non facendo partire Pogba dal primo minuto. Hai qualche notizia diversa in merito? No, da questo punto di vista qui no, ti dico, io sono ancora un po' fermo a ieri notte. Resta comunque no, eventualmente una scelta, cioè è vero che Pogba è un giocatore che sta facendo adesso benissimo, però è anche vero che questa è una partita che pesa anche a livello d'esperienza. Questo sicuramente, cioè questo ragazzo mi ha impressionato molto nella partita col Bologna, per proprio anche la mentalità, la capacità non solo tecnica ma anche psicologica di entrare nella partita, però insomma adesso non è che debba essere utilizzato in tutte le partite. E poi non dimentichiamo una cosa, che bisogna anche mantenere qualcuno per la partita contro i danesi di mercoledì, perché quella diventa una partita da un certo punto di vista più importante di quella con l'Inter, perché con l'Inter puoi anche pareggiarla o perdere, insomma c'è tutta una stagione. Con i danesi, se non la vinci, sei fuori dalla Champions League. Sì, il vero turnover in realtà probabilmente a Conte converrebbe, ma sicuramente questo ragionamento Conte l'ha fatto, risparmiando contro il Bologna qualche fatica ai suoi, proprio in vista di questa sequenza di impegni dove la Champions diventa a questo punto un impegno senza via d'uscita. Secondo te peserà nella testa un pochino questa sera o no? Juventus-Inter cancella tutto? No, nella testa non pesa. Potrà pesare nelle gambe invece mercoledì, la partita di stasera, quello sì, ma nella testa sicuramente non pesa. Non credo che i giocatori della Juventus possano essere condizionati dall'idea che poi giocheranno in Champions League per una partita del genere. Probabilmente ha pesato invece sulla partita di Bologna l'idea che avrebbero dovuto giocare con l'Inter poi dopo oggi, ecco, quello sì, perché probabilmente la partita col Bologna non era abbastanza stimolante dal punto di vista delle attese, del confronto tecnico. Questa è una partita che invece io penso che qualunque giocatore cercherà di giocare al massimo. Sì, la partita col Bologna che secondo me ha dimostrato un limite della Juventus di quest'anno, che potrebbe diventare, diciamo, pericoloso soprattutto se la Juventus dovesse trascinarsi qualche avversario credibile in campionato nel prosieguo di questa stagione, ma allo stesso tempo la grande forza di questa squadra, che è una squadra cannibale. A me ricorda molto l'Inter di Mourinho da questo punto di vista, cioè capace comunque di vincere, di portare a casa le partite anche nelle giornate in cui fatica, anche nelle giornate in cui gioca male, in cui comunque l'avversario con due tiri ti ha fatto un gol. Beh, però alla fine io ricordo ad esempio un Inter-Siena ribaltata negli ultimi tre minuti, cioè alla fine vincono sempre loro. Sì, questo è abbastanza evidente. Io continuo a pensare che la Juventus dell'anno scorso fosse molto migliore di quella di quest'anno, e quindi io andavo a vederla con più gusto che non quella di quest'anno. Quella di quest'anno è una squadra che sta cominciando a gestire un po' troppo le cose, mentre invece l'anno scorso era una squadra terribilmente aggressiva, soprattutto nella parte finale del campionato. È una squadra che non mi ricordavo di aver visto la Juventus così da tantissimi anni, forse mai. Come atteggiamento, come qualità, come tecnica, eccetera, ce ne sono state decisamente superiori. Quella di quest'anno non lo so, a volte vedo che se la cava anche con un po' di fortuna o con situazioni che uno dice vabbè, stavolta è andata, chissà la prossima se gira sempre così bene. Poi è vero che il carattere c'è, per cui giochi gli ultimi 10 minuti con il Bologna in quella maniera. Sì, con furore agonistico. Furore, l'ultima mezz'ora contro il North Zealand con un'aggressività incredibile, e uno si chiede ma perché non l'hai fatto prima, ecco, tutto lì. Non c'è dubbio. Grazie Marco Ansaldo. Ok, grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Ciao. Marco Ansaldo, inviato della Stampa questa sera a Torino per Juventus Inter. Io ricordo ancora i contatti, adesso ci fermiamo, metto in pubblicità, poi mi interessa sentire anche cosa ne pensate voi di questa vigilia di Juventus Inter. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport - Radio 24 o via Twitter @ Capuano Gio. Pubblicità. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Marco da Milano, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Prego. Io sono tifoso del Milan, quindi ovviamente mi auguro che Andremo anche a San Siro dalla nostra amica e amica di Radio 24 Alessandra Bocci per vivere l'immediata vigilia di questo Milan-Chievo. Prego Marco. Benissimo, no, io volevo incentrare il mio intervento un pochino su questo Juventus-Inter, perché sì. Vabbè, noi quest'anno c'è poco da dire. Volevo innanzitutto, visto che appunto noi abbiamo i record di imbattibilità di 58 partite con il Milan di Sacchi. Non mi dica che tiene all'Inter. Mi auguro che vinca l'Inter, sì. E poi, per quanto riguarda invece Juventus-Inter, volevo chiedere un consiglio, se possibile, se magari riuscite a darmi questa informazione. Visto che appunto io ho un cane che perde tanto pelo, mi chiedevo chi pulisce poi il gabbiotto di Conte con i suoi capelli, che sì. Prodotto usa? Non lo so, guardi, bella battuta, ma insomma si fa per dire. Va bene, io credo che si possa restare anche su altri livelli, Marco, mi consenta. Però sentiamo lo Stramaccioni, Conte ovviamente non ha parlato perché è squalificato. Stramaccioni ieri è la vigilia di questa partita. Capire... e questo lo dico a 360 gradi, sia importante capire che comunque qualsiasi risultato uscirà da questa gara, molto bello, brutto o intermedio, è la decima giornata e l'Inter a 20, 30, speriamo 40, compresa l'Europa, partite davanti. Quindi sicuramente una partita importantissima, ma è troppo presto per cambiare la connotazione di una squadra o di un allenatore o dei calciatori, quindi secondo me più può essere un risultato che dà più eco mediatico nel bene o nel male che reale, cioè io di questo sono fermamente convinto, perché manca davvero troppo, quindi potresti fare un risultato positivo e poi disperdere quello che hai fatto, come potrebbe un risultato negativo magari lasciarti al secondo posto, al terzo posto, e comunque il nostro cammino è ancora tutto da scrivere. Questo era Stramaccioni. Buon pomeriggio ad Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport a San Siro. Alessandra. Ciao, buona serata. Allora, cambia ancora Allegri, difesa 4, 14esima difesa in 14 partite, anche se l'impressione è che questa volta sia stato costretto dall'assenza di Bonera, altrimenti avrebbe fatto a meno. Devo dire che anche altre volte è stato costretto magari dall'assenza o dal scarso stato di forma dei giocatori, però hanno fatto comunque scalpore tutti i cambi di modulo, che sono in ogni caso stati tanti, i cambi di giocatori, le formazioni a sorpresa, insomma quella di oggi sembra, alla luce dei risultati e nel senso dello stato di forma dei giocatori, sembra la migliore, ecco. Dà la sensazione questa partita di essere l'ennesima ultima spiaggia. Noi ci eravamo lasciati due o tre settimane fa che eravamo sugli scogli. Ma guarda, io credo che finché resterà saranno tutte ultime spiagge, e l'ultima spiaggia non ci sarà più quando lo butteranno a mare, ecco, metaforicamente parlando. Mi sembra una stagione cominciata così, non credo che possa svoltare in senso molto positivo, voglio dire, anche se io credo che il Milan riuscirà a passare il turno in Champions, almeno la logica e i punti e la condotta delle partite dello Zenit lasciano pensare che andrà avanti, poi agli ottavi, passando come seconda in classifica, insomma sarebbe in ogni caso tutto molto difficile, però il risultato minimo almeno in Europa sarebbe ottenuto, ma non credo che questo basterebbe a creare un clima di maggiore fiducia intorno all'allenatore, e non parlo della società, non tanto della società quanto insomma dell'ambiente in generale. Sì, perché bisogna capire dove si pone poi il limite ultimo. Voi della Gazzetta dello Sport avete ben raccontato mercoledì mattina il burrascoso dopo partita di Palermo, se viene a mancare anche lo schermo di Adriano Galliani per Allegri, il problema non è più ragionare sul medio termine, ma probabilmente diventa ragionare anche nel breve periodo. Sì, detto questo, trovo abbastanza singolare la posizione dell'allenatore. A memoria io non ricordo un allenatore, a parte forse Benitez all'Inter, tenuto così in bilico per così tanto tempo. La differenza era che Benitez era stato preso dopo un'annata favolosa e forse evidentemente Onassi non era tanto convinto, Devo dedurre che nonostante il primo e il secondo posto delle stagioni precedenti, anche Berlusconi si è tanto convinto di Allegri. Galliani fa quello che può per tenerlo in sella, perché credo che sia la cosa più logica e sensata per la società, e c'è un particolare importante: la squadra comunque lo segue, la squadra mi sembra aver fatto abbastanza fronte comune con l'allenatore, questo di solito è un buon dato, poi bisogna vedere quello che riescono a raggiungere a livello di punti. Sì, a livello di orgoglio, a livello di reazione qualcosa si vede, perché senza un minimo di compattezza, un minimo di orgoglio, una capacità di reazione, non risali da 2-0 a 2-2 a Palermo e in fondo anche a Roma con la Lazio. Alla fine hai rischiato di riaprire una partita che sul 3-0 era morta e sepolta. Da casa ci scrivono: Allegri non può sperare che il faraone tolga ancora le castagne dal fuoco, se solo Patto non fosse un mezzo calciatore a causa degli infortuni, ovviamente il discorso del Milan cambierebbe. Intanto questa sera Patto non gioca, è un po' una bocciatura da questo punto di vista delle sue attuali condizioni, intendo. Diciamo che è la presa di coscienza del fatto che questo giocatore non è pronto, e comunque in questo momento per la squadra è un peso troppo grande dare a lui la possibilità di giocare. È chiaro che Patto, per tornare a un livello accettabile, ha bisogno di giocare, però schierarlo titolare dopo le due pessime partite sarebbe stato ancora una volta partire un po' a handicap, perché è evidente che non è ancora in condizioni. Non so se poi sia una questione fisica o piuttosto una questione psicologica legata alla paura evidente di farsi male dopo tanti infortuni. Comunque, qualunque sia la causa, è chiaro che in questo momento non è un giocatore sul quale Milan può contare al 100%. Per chiudere invece, qualcosina su Bojan: all'inizio era un oggetto misterioso, adesso ha convinto, però in un ruolo che è diverso da quello probabilmente per cui era stato acquistato. Anche qui io ho l'impressione che Allegri segua un po' l'onda, cercando di cavalcare le poche buone notizie che ha in mano in questo momento e cercare di trarne il massimo profitto. Però è anche vero che Bojan, messo lì dietro la prima punta, questa sera sarà Pazzini, ha fatto bene e quindi merita un'altra chance. Giocatore che ha molta, molta qualità dal punto di vista tecnico, è un giocatore eccellente, secondo me non è un giocatore che potrebbe avere grandissima continuità, perché comunque è molto esile, non è potente, questo in un tipo di calcio fisico, soprattutto in una squadra che non gioca benissimo, no, e non fa un calcio molto, molto tecnico, probabilmente non gli permetterà di fare tante grandi partite continuamente, però è stato molto bravo a Palermo e credo sia giusto che Allegri gli abbia dato una chance da titolare. Grazie ad Alessandra Bocci. Grazie a voi. Sento il fiatone delle scale di San Siro, sta salendo in tribuna stampa perché manca un quarto d'ora a Milan-Chievo. Chiudiamo dunque la pagina di Milan-Chievo. Intanto Mario da Milano scrive: a parte la battuta orrenda, segnalo al mio collega di tifo che il record del Milan imbattuto non era il Milan di Sacchi ma il Milan di Capello. Evidentemente Mario da Milano non era assolutamente in forma questa sera. Antonio su Twitter @CapuanoJo chiede se è impossibile sperare che perdano entrambe, e direi che è assolutamente impossibile, questo è evidente, ma se fossi in un tifoso non della Juventus o non dell'Inter, probabilmente mi augurerei una vittoria della Juventus per riportare l'Inter in linea di galleggiamento con le altre. Ci fermiamo un minuto per le notizie sul traffico, poi torniamo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Oggi è anche giornata di vigilia perché domani c'è tutto il resto del programma della Serie A. E allora sentiamo qualche voce di allenatore, a partire da Zeman, che viene messo in discussione a Roma. Ne ha parlato ieri anche il direttore sportivo Sabatini. Sentiamo oggi che cosa ha detto Zeman. È un calcio. Può succedere di tutto, e se la società non è contenta lo può cambiare. Io continuo a dire che io sono convinto di quello che faccio, sono convinto che questa squadra ha dei valori, sono convinto che prima o dopo li uscirà fuori e ci lavoro per questo. La società fa la società e non fa allenatore, quindi non mi ha mai suggerito quello che devo fare, mi lascia la mia responsabilità. Ma io penso che se non ci sono risultati sperati è normale che l'ambiente non è contento. Poi bisogna valutare, sicuramente i tifosi, i giornalisti valutano da un punto di vista, io come allenatore valuto dall'altro. E questo era Zeman. Adesso Mazzarri, che domani ritrova Cavani al centro dell'attacco. C'è qualche dubbio su chi possa essere invece la spalla dell'uruguaiano, perché probabilmente giocherà Pandev, in realtà esiste un ballottaggio anche con Insigne. Comunque sentiamo Mazzarri. Di Cavani sono fiducioso perché l'ho visto ieri provare per bene, mi sembra che almeno, ora vediamo, l'ultimo allenamento lo sapete, c'è fra qualche ora, dovrebbe star bene, dovrebbe essere recuperato. Di Pandev lo sto aspettando, lo stiamo aspettando, perché ieri ha avuto questo problema alla caviglia, vediamo, su quello devo capire quando arriverà qui, non so dirvi molto di più. E questo era Mazzarri. Chiudiamo con Petkovic, allenatore della Lazio, che deve rialzarsi. Preoccupato per niente, perché in tutte e tre partite abbiamo meritato qualcosa di più. Con una circostanza o altra circostanza, come ho detto, palle ferme, abbiamo perso in queste anche tre partite troppi punti. E lì dobbiamo migliorare, dobbiamo come entrare al 100%, così anche finire la partita al 100% di concentrazione. Non devono essere caldi di concentrazione. Questo era Petkovic. La Lazio ha bisogno di rialzarsi, anche se Petkovic si dice fiducioso. Lazio, che proprio una settimana fa è stata al centro di molte delle polemiche arbitrali del penultimo turno. Intanto non ci sono ancora notizie da Abu Dhabi, perché continua la riunione, è ancora in corso tra gli uomini della Red Bull e i commissari di gara. Lo ricordiamo, sotto investigazione c'è la posizione di Sebastian Vettel, che non ha chiuso l'ultimo giro delle prove cronometrate e quindi rischia di perdere delle posizioni in griglia. Siamo in attesa di avere qualche novità, perché evidentemente questo potrebbe cambiare il corso di questo finale di stagione mondiale. Intanto andiamo a sentire la voce di Fernando Alonso ai microfoni di Rai Sport. Fernando Alonso settimo in questo momento sulla griglia. La realtà è che abbiamo fatto il meglio possibile, abbiamo trovato il limite di quello che avevamo in mani. Penso che in Q2 ho fatto 41.5 e in Q2 il primo tentativo 41.5 e il secondo tentativo 41.5. Posso fare 100 volte in più e non penso che il limite è lì. Pensare a domani, comunque la qualifica è sempre il nostro punto forse più debole, il sabato, e poi la domenica riusciamo a avere una pace buona. Quindi per domani dobbiamo essere ancora ottimisti, vedere cosa succede, perché le gare sono lunghe, dobbiamo fare sempre 14 punti più di Vettel in tre gare. Questo è il nostro obiettivo, non solo la qualifica di oggi di Abu Dhabi. Il problema per Alonso è farli 14 punti più di Vettel in tre gare. Io saluto e ringrazio Linus da New York. Buon pomeriggio Linus, anzi buongiorno per te. Per noi buongiorno, per voi buonasera, credo, buongiorno comunque. Sì, è quasi sera. Che non si faccia la maratona di New York, io credo che oramai lo sappia tutto il mondo, anche in Italia. Oggi grande spazio sui giornali, ma giustamente, perché è un avvenimento intanto che coinvolge molti italiani, quasi 1000 tutti gli anni, e poi ovviamente è uno dei simboli dello sport mondiale. Questa doveva essere, se non ho letto male, la tua 11ª e ultima maratona di New York, sì. Giusto? Sull'ultima magari a questo punto mi toccherà tornare, perché lascia un po' un senso di incompiuto questa cosa, appunto, di non averla potuta disputare. Devo leggermente correggerti, gli italiani presenti sono quasi 3.000 e lo scorso anno addirittura erano 4.000, per cui sono veramente tanti. Ed è una cosa bizzarra questa cosa di una maratona sospesa o cancellata un attimo prima. È come se cancellassero un attimo prima, che ne so, la finale dei 100 metri o la finale dei mondiali di calcio, perché non dimentichiamo che la maratona di New York, insieme al Tour de France e credo appunto la finale dei 100 metri, è uno dei tre eventi sportivi più popolari al mondo. Alla fine ha vinto l'opinione pubblica, da una parte insomma dispiace tantissimo per quelli che sono venuti qui facendo sacrifici, spendendo soldi che difficilmente riusciranno a rivedere, però l'opinione pubblica qua a New York era fortissimamente contro la maratona, e siccome l'elemento più importante è proprio questo, no? Ci sono 50.000 persone che corrono ogni anno, ma ci sono 2 milioni di persone per le strade che sono quelli che fanno veramente la festa e l'evento, e quest'anno questi 2 milioni di persone la maratona non la volevano, e credo che Bloomberg abbia giustamente ceduto. Sarebbe stata una violenza probabilmente portare un momento di festa dentro una città che è ferita. Io ho letto sul tuo blog che tu parli, a parte di un Central Park chiuso, di segnali gravi che non hai visto di quello che è accaduto nei giorni scorsi a New York. Mi pare di capire però che al di là della tempistica sia difficile dar torto a Bloomberg. Sì, ecco, la sola cosa che si può rinfacciare è non averla sospesa o cancellata già martedì scorso, però onestamente tecnicamente non c'erano motivi per non correre alla gara, perché il percorso è assolutamente libero, quindi non c'erano impedimenti da quel punto di vista. È più una questione morale, nel senso che comunque la gara avrebbe attraversato dei quartieri come Queens e una parte di Brooklyn che sono tuttora senza elettricità, dove ci sono state decine di morti. Evidentemente era troppo presto per trasformare questa cosa in una festa. Central Park ha riaperto oggi dopo 5 giorni che era chiuso. Io stamattina ho fatto una corsetta, ci sono cataste enormi di alberi tagliati, insomma comunque si fa fatica a non dar ragione a questa scelta, con, ripeto, il fastidio di essere venuti per niente, ce lo si poteva anche risparmiare. Questa mattina come si è risvegliata, come è stato il giorno dopo di New York? Ricordiamo che la cancellazione in fondo è arrivata davvero in extremis nella giornata di ieri. Ma per gli italiani, per tutti quelli che sono qui a correre, c'è molto fastidio, insomma un po' di delusione, ecco, anche se poi dopo il popolo di quelli che corrono si fa fatica a renderlo felice, basta rimetterlo insieme. Oggi pomeriggio c'è un incontro nel quale si deciderà cosa fare domani, probabilmente una corsa tra italiani a Central Park, giusto per starci uniti, per stare insieme, insomma. È una piccolissima consolazione, ripeto, perché c'è tanta gente che questi 3.000 euro che servono per fare questa trasferta magari li ha sudati e messi via in un anno o due anni di lavoro. Sì, magari era anche il sogno di una vita, perché ne conosco anch'io tanti che si allenano e la sognano questa maratona. Grazie a Linus, direttore artistico di Radio DJ. Grazie Linus. Grazie, buon lavoro. Questo era il giorno dopo di New York. Noi ci fermiamo qui. Un ringraziamento a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Il calcio torna domani a partire dalle 16:30. Parleremo di Juventus-Inter, vi racconteremo tutta la giornata, sentiremo anche i vostri pareri. Quindi appuntamento domani alle 16:30 con A Tempo di Sport.